che il volto le sfiorava in un sospiro, mentre il suo labbro ripeteva giuro, ma pur l'amore è un vento di follia che fugge come sei fuggita tu. Vento, vento, portami via con te, raggiungeremo insieme il firmamento, disperderò nell'aria di rimpianto e con le stelle chiare voglio scordarmi un tradimento. Vento, vento, portami via con te. Tu passi lieve come una chimera, vento d'aprile di primavera, tu che lontano puoi sfiorarla ancora, dille che io l'amo, il cuore mio l'implora, dille che io tremo dalla gelosia solo al pensiero che la baci tu. Vento, vento, portami via con te, tu che conosci tutte le mie pene, dille che ancor le voglio tanto bene, sotto le stelle chiare.